avere più tempo di far quel che si vuole, ma adesso qui ora voglio parlare d'amore. Nella mia vita sei tu e dura come te, non la ritroverò più, perciò da quando io ti ho incontrata, da quel giorno lì non ti ho più dimenticata. Numero libero, per favore dimmi se qualcosa è cambiato nel tuo cuore, che io continuo a sentirti sulla mia pelle, sotto il sole senza il cielo, dove splendere. Cosa ora è nel